A bordo campo di Dario Ricci. Torniamo sul tema del razzismo negli stadi qui a bordo campo, perché insomma i recenti fatti, a partire da Pro Patria Milan nel caso Boateng in poi, hanno riaperto il dibattito e ahimè direi che prima o poi ci dovremo ritornare. Quindi a bordo campo non perdiamo tempo, continuiamo ad approfondire l'argomento e questa volta parliamo dei famosi, famigerati, apprezzati, non apprezzati, lo valuteremo poi insieme. Stewart, questa figura professionale nuova inserita da qualche stagione nei nostri stadi e che pure ha un ruolo importante nella sicurezza, nel monitoraggio dei comportamenti dei tifosi, nella segnalazione alle autorità preposte dei comportamenti non corretti. E allora c'è stata una frase che, detta qualche settimana fa dal ministro degli interni Cancellieri, a 9 in punto, condotto da Simone Spezia, devo dire su mia sollecitazione, ha fatto un po' arrabbiare gli steward. Risentiamolo un po' quel passaggio di 9 in punto. Guardi, si sono fatti già passi da gigante rispetto a quello che era una volta. Poi potrebbe aprire un dibattito sulla qualità dei nostri stadi, sulla loro dislocazione, su altri aspetti che però qui non tocchiamo. Sicuramente la catena di comando deve essere ogni tanto oleata e riavviata, diciamo, e gli steward devono fare gli steward, non devono guardare la partita, devono guardare gli spettatori. Il loro compito è quello, e come d'altra parte si è sempre fatto, nel senso spalle alla partita e occhio a chi sta sugli spalti, perché a quel punto se prendi il coro razzista lo individui subito e subito lo allontani. Cioè ci vuole un impegno forte, ma con questo credo che occorra proprio ogni tanto, come tutte le cose del mondo, ogni tanto la riavviata. Gli steward devono guardare gli spettatori e non la partita, ha detto in poche parole il ministro Cancellieri. E lei, Manuel Delle Chiaie, presidente dell'Associazione Nazionale Steward, si è arrabbiato parecchio a quella frase. Ben trovato, presidente, qui a bordo campo, grazie di essere nostro ospite. Grazie a voi per avermi contattato, buonasera a tutti i radioascoltatori. Insomma, l'ha fatta arrabbiare il ministro e anche il sottoscritto, vero? No, diciamo, arrabbiare è una parola grossa, importante. Diciamo, un po' di fastidio nel sentire queste cose, soprattutto da chi poi è deputato a organizzare il servizio dello stadio e dovrebbe conoscere profondamente il servizio che si svolge negli stadi. Ecco, presidente. Ecco presidente, direi che lei tocca subito un tasto importante, perché noi vediamo gli steward negli stadi, spesso lavorano molto bene, in altri casi sicuramente minoritari invece li vediamo o confinati in un angolino delle curve più bellicose o a guardarsi la partita, insomma può starci, nel senso che la diversità della prestazione professionale non è caratteristica solo degli steward, però ci aiuti un attimo a sintetizzare e a ricordare insieme quali sono i vostri compiti specifici, perché ormai a sti steward gli chiediamo un po' tutti, no? Ma guardi, intanto io vorrei fare una breve introduzione, nel senso io capisco perfettamente e sono il primo a vedere che non ci sono delle persone, che ci sono dei colleghi che non sono adeguati a fare questo servizio. Diciamo il mio appunto era che una frase del genere detta a livello nazionale poteva creare dei problemi. Adesso io entro nel merito della domanda che mi ha fatto e le rispondo. Gli steward fanno di tutti i servizi, dal prefiltraggio, che sarebbe l'area di massima sicurezza dello stadio, ai tornelli, al controllo sommario, allo strappo dei biglietti, alla bonifica dell'area congiuntamente alle forze dell'ordine, all'istradamento dei tifosi e all'assistenza del tifoso all'interno dello stadio. Quindi è una moltitudine di servizi che gli steward fanno, non è solo stare sui spalti e guardare il tifoso. Ecco, presidente, detta così la prima osservazione mi viene in mente, non sono anche un po' troppi rispetto al fatto che siete una figura relativamente giovane, perché da quanto tempo siete negli stadi italiani? Mi aiuti un po'. Ma guardi, tecnicamente le persone, gli steward sono dentro i segliani almeno da 15-20 anni, poi sono stati regolamentati e ufficializzati nel 2008 con il decreto dell'8 agosto 2008, se non erro, quindi ufficialmente sono dentro gli stadi dal 2008, però anche anni precedenti c'erano comunque servizi dette maschere che prestavano servizio dentro gli stadi. Certo, quindi uno ha, diciamo, su quello scheletro poi è stata un po' istituzionalizzata la figura, ripresa un po' direi dal calcio inglese, no? Sì, diciamo di sì, è stato deciso di portare anche in Italia la figura dello steward, diciamo anche per mettere, diciamo, in prima linea queste persone come noi, per cercare di essere i primi ad affrontare quelle che sono poi le problematiche dello stadio, svincolando, penso anch'io giustamente, le forze dell'ordine da questi servizi. Ecco, però voi infatti che poteri di intervento avete? Perché faccio l'esempio in soldoni, se cominciano a picchiarsi in curva, voi siete lì col giubbottino giallo a mani nude, non è una bella situazione. Ma guardi, intanto bisogna precisare che noi lavoriamo comunque sempre in stretto contatto con le forze dell'ordine e con chi dirige l'ordine pubblico allo stadio. Noi non possiamo prendere comunque iniziative che possano comunque portare conseguenze, quindi ci rapportiamo sempre a quello che è la polizia. È normale che poi le situazioni vanno viste lì al momento, è normale che se c'è una situazione di grande rischio lì si decide al momento se intervenire per cercare di fermare sul nascere una situazione critica o restare ad osservare ed intervenire in un altro modo. Ecco, dal punto di vista legislativo che poteri vi garantisce la normativa? Perché se voi date un ceffone a un tifoso pur bellicoso, passate dei guai o no? Quello sicuramente, penso che chiunque, anche che porti una divisa, se dà un ceffone o comunque crei problemi a un tifoso mettendogli le mani addosso, penso che comunque tutti passano dei guai. Noi siamo, diciamo, dobbiamo essere quelle persone che cercano di prevenire queste situazioni. Quindi noi dobbiamo essere lì a disposizione del tifoso, cercando il dialogo, cercando il modo di non far creare queste situazioni. Certo, siete un po' anche un deterrente, nel senso vedo lo steward, quindi tutto sommato mi sento osservato e se ho dei cattivi pensieri me li faccio passare. Le chiedo anche quanto guadagnate, perché cioè quanti siete i professionisti, perché immagino che sia un mestiere che in buona parte sarà fatto magari da professionisti, ma anche da chi magari lo fa part time, o sbaglio? Ah, guardi, la figura dello steward, intanto per ricevere la qualifica dello steward bisogna fare dei corsi fatti da funzionari di pubblica sicurezza e da professionisti. Una volta che si fa questo corso si acquisisce la qualifica di steward e si può operare all'interno degli stadi. Quindi però la figura dello steward sono tanti, sono da ragazzi che magari studiano a persone che hanno bisogno del secondo lavoro a chi lo fa, come diceva lei giustamente, anche solo quello di lavoro, quindi opera direttamente nel campo della sicurezza. Per quanto riguarda, come diceva lei, il compenso, purtroppo questo è un tasto dolente perché a seconda delle parti d'Italia e delle società i compensi variano, andando da un minimo veramente ridicolo di 15 euro a servizio. Insomma, pensate, è un po' poi un serpente che si morde la coda, come si dice, perché chiaramente un servizio così mal retribuito diventa poi più difficilmente qualificato. Abbiamo affrontato questo argomento della lotta al razzismo. Ecco, presidente delle Chiaie, voi avete tutte le domeniche e tutti gli altri giorni, visti i calendari spalmati di questi tempi, negli occhi i tifosi e spesso gli ultra. Ecco, chiaramente è difficile chiederle una risposta o una soluzione, però quantomeno delle indicazioni per rendere più efficaci le misure di contrasto di questo fenomeno. Guardi, questa è una bella domanda e la risposta forse ci vorrebbe molto molto tempo per darla. Il fenomeno del razzismo in Italia io lo catalogherei molto più come ignoranza, perché queste cose succedono purtroppo solo negli stati, quindi penso che ci sia lì veramente una concentrazione di persone che sfogano veramente determinati istinti che magari nella società normale all'infuori dello stadio non succedono. Però cosa fare? Perché questa è un po' un'analisi sociologica, condivisibile o no, però voi dalla vostra posizione cosa chiedete per essere anche più efficaci nel vostro lavoro? Diciamo che le nostre mansioni sono quelle, comunque, come dicevo prima, di prevenire, quindi instaurare un rapporto con i tifosi e cercare di stroncare sul nascere queste manifestazioni razziali o discriminative. Il problema poi dipende anche dalla legislatura e dagli interventi che poi dovrebbe fare chi è deputato all'ordine pubblico, di provvedimenti restrittivi o interdittivi, ma questo purtroppo non è nostra facoltà, non è il nostro potere di intervento quello. Ci mancherebbe. Le chiedo ancora, Presidente, però avete un vostro, ad esempio, codice etico, regolamento interno per sanzionare quei pochi tra voi che approfittano del giubbetto giallo e della qualifica di steward per vedersi la partita gratis? Guardi, questo purtroppo ancora no, ma ci stiamo lavorando. Questo è un problema che stiamo cercando di risolvere, perché io tornerei, se è possibile, indietro di un attimo, perché volevo finire il concetto per quanto riguardava le paghe. E vorrei dire anche una cosa che va contro il mio stesso interesse, perché io cerco di mettermi dalla parte sia di chi lavora e di chi è il datore di lavoro, e quindi dico che sì, 15 euro o altre paghe sono poche, queste paghe sono ridicole, però per chiedere l'aumento della paga secondo me bisogna anche essere professionalmente preparati e portati a fare un determinato di servizio. E lo spiego brevemente, nel senso, se una persona, come diceva lei, uno steward, va allo stadio solo per vedere la partita, secondo me moralmente non è corretto chiedere un aumento di paga se poi non si fa il servizio. E quindi questo è il problema di fondo, che secondo me poi non si riesce a trovare l'accordo con chi poi dovrebbe tutelare i nostri interessi. Insomma, Presidente delle Chiaie, qua alla fine quasi ci ritroviamo che le faranno fare il doppio ruolo di presidente dell'associazione e di sindacalista, perché è una dichiarazione forte, però chiaramente comprensibile nelle sue motivazioni. Allora, Manuel delle Chiaie, prendiamo questo come solo primo appuntamento qui a Bordocampo per approfondire questo argomento, nel senso che ci ritorniamo presto per seguire anche l'evoluzione di questo ruolo che ammiriamo molto all'estero, ma che in Italia, come abbiamo sentito dalle sue stesse parole, è ancora piuttosto un ibrido, è in fase di sviluppo e quindi sicuramente perfettibile e perfezionabile. Intanto, Manuel delle Chiaie, presidente dell'Associazione Nazionale Steward, grazie per essere stato nostro ospite e per aver accettato l'invito di Radio 24 e di A Bordo Campo. Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori. A Bordo Campo. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. La voce inconfondibile l'avete riconosciuta, è Lance Armstrong che confessa di aver fatto ricorso al doping al microfono di Oprah Winfrey. Beh, forse il più grande scandalo doping della storia dello sport di sempre. Se ne è parlato molto, se ne continuerà a parlare, perché è vicenda tutt'altro che chiusa dalla confessione di Lance, quella del doping che ha accompagnato e scandito tutta la sua carriera, in primis i 7 Tour de France vinti e ora cancellati. Ma c'è un aspetto che ci piace approfondire oggi a Bordo Campo con un collega che è in collegamento con noi dalla redazione del Sole 24 Ore di New York. Benvenuto Claudio Gatti. Grazie. Allora Claudio, dicevamo il doping di Lance Armstrong, abbiamo risentito le parole del texano, ma c'è un aspetto che secondo te, perché già ne hai scritto sul Sole 24 Ore, ma anche secondo noi di A Bordo Campo, merita un approfondimento: il legame tra questo sistema doping, ancora tutto da esplorare, e gli sponsor che in qualche modo si sono legati nel corso della sua grande carriera al campione texano e più in generale al mondo del ciclismo. Ecco, quanto può aver guadagnato Armstrong nella sua carriera a partire da questi successi dopati? Secondo le stime fatte da giornali specializzati americani, lui ha già un patrimonio attorno ai 125 milioni di dollari. Si calcolava che attraverso le sponsorizzazioni che avrebbe continuato ad avere se non fosse stata per la testardaggine della USADA, l'agenzia antidoping americana, che ha continuato a indagare nonostante la stessa Procura federale di Los Angeles avesse archiviato il caso, ne avrebbe accumulati almeno un altro 100-150 milioni, quindi delle cifre enormi, ma cifre quasi insignificanti rispetto al ritorno commerciale di marketing, di immagine, che però è quantificabile in denaro, che hanno avuto gli sponsor di Armstrong, come di tutti gli altri grandi campioni. Anche perché, e tocchi il punto centrale della nostra chiacchierata, tutti a minacciare cause milionarie per farsi ridare i soldi da Armstrong, e pur nella consapevolezza che sono per corsi anche legali molto complessi da mettere in campo, finora di fatti se ne sono visti pochini. Una ragione c'è, perché tutto sommato a denunciare qualcuno poi si indaga a tutto campo, e qualche colpa forse questi sponsor o qualche comportamento ambiguo possono anche averlo avuto, no? Assolutamente sì, da parte dello sponsor in generale c'è una reticenza a andare ad approfondire, primo perché hanno avuto comunque un guadagno da questa operazione, quindi è difficile anche provare di essere stati frodati da una persona che comunque ha portato grossi ritorni economici, ma soprattutto perché andando a scavare, come aveva fatto inizialmente la Procura federale di Los Angeles, emergono a degli aspetti delicati. Il discorso degli sponsor, secondo me, è un discorso di responsabilità che variano, ma che si va dal chiudere un occhio a chiuderli tutti e due, a addirittura aiutare a tenere in vita un sistema come quello di Armstrong. Interessante il fatto che tu hai contattato direttamente alcune grandi aziende, multinazionali, alcuni grandi atleti del ciclismo internazionale per avere informazioni su questo rapporto complesso, ambiguo, e le risposte sono state tutt'altro che chiare, no? Ma molto colpito il fatto, ad esempio, che contattando dei ciclisti della Rabobank, la squadra olandese che sostenuta appunto dalla grande banca olandese che ora si sta disimpegnando di fatto dal ciclismo, ha individuato degli aspetti davvero poco chiari nei contratti che legano i ciclisti a questi team e conseguentemente agli sponsor. Assolutamente sì, perché è l'evidenza cartaceo e documentale di quello che i pochi ciclisti che hanno rotto, sono stati disposti a rompere il muro dell'omertà, quali Jörg Jaks, il tedesco che stava nella squadra di Ulrich, mi hanno detto ripetutamente, cioè, che c'è un accordo silenzioso, un accordo diciamo nascosto tra l'atleta, il ciclista o l'atleta in generale e la squadra barra lo sponsor, che è quello di vincere a ogni costo purché non si sia beccati. Nel momento in cui si cade in un test positivo, in linea di massima il ciclista già sa in partenza che la squadra e lo sponsor lo abbandoneranno, ma questo sembrava fosse una cosa diciamo non formalizzata, mentre sono riuscito a ottenere copia di al testo di un contratto della Rabobank e ho scoperto che esisteva un appendice in cui si diceva esplicitamente esprimeva questo concetto, e cioè non solo si partiva dal presupposto che assolutamente Rabobank è contraria e proibisce l'uso di qualsiasi sostanza dopante, però poi dopo c'erano delle clausole che dicevano, primo, che la squadra avrebbe sostenuto il ciclista nel caso avesse avuto un primo test, un test A, come si chiama, risultato positivo, ma soprattutto vietava al ciclista di parlare assolutamente di qualsiasi cosa relativa al doping con qualcuno per sempre, cioè il contratto non valeva soltanto per il periodo di, in cui si era con una squadra, ma era eterno. Eh sì, un silenzio, definiamolo pure, tombale per non svelare quello che è una relazione che a nessuno dei protagonisti interessa venga sia resa nota. E in molti casi è proprio lo sponsor, e ahimè parliamo proprio di un caso vicinissimo, anzi più che vicino al nostro sport, che in qualche modo è mediatore, no, tra atleta e protagonisti oscuri del mondo della medicina, per non dire altro. E faccio riferimento, e questo l'ho approfondito anche sempre tu, al caso Schwarzer. Sì, nel senso che Alex Schwarzer era un atleta sponsorizzato da Kinder Plus, quindi Ferrero, sin dai tempi della sua vittoria olimpica, e quando lui ha ammesso di essere stato seguito dal famoso dottor Ferrari, Michele Ferrari, erede del Conconi, anche lui professore ferrarese, che è inibito dalla federazione ciclistica sin dal 2002, quindi noto in tutto il mondo ciclistico di sicuro, ma in generale sportivo, come una persona sospetta o sospettata di essere responsabile di attività di dopaggio. Nella sua testimonianza Schwarzer in procura a Milano ha detto che la persona che lo aveva indirizzato dal dottor Ferrari era stato proprio Pietro Ferrero, all'epoca amministratore delegato con suo fratello e ovviamente proprietario della Ferrero, che era un ciclo amatore. Il dottor Ferrero è morto nell'aprile 2011 in bicicletta in Sudafrica, e che aveva un rapporto stretto con il dottor Ferrari, e non solo, aveva un rapporto strettissimo con Ivan Basso. E Ivan Basso, che vinse Giro d'Italia, insomma famoso ciclista, era legatissimo a Ferrari, tant'è che andò a testimoniare a favore di Ferrari nel procedimento in cui Ferrari era stato accusato da Simeoni, Filippo Simeoni, che aveva detto era stato il primo ciclista a rompere il muro dell'omertà. Dall'esperienza che stai maturando, quali possono essere le possibili vie di uscita, o quantomeno gli strumenti a questo punto da mettere appunto in cantiere per chiarire e rendere più trasparente questo rapporto tra atleti e sponsor? Beh, innanzitutto c'è un progetto in fieri in questo momento nel mondo dell'antidoping, che è sostenuto anche in parte, anche forse non ancora formalmente, dalla WADA, l'Agenzia Mondiale, di creare una sorta di commissione per la verità, un po' come quella che fu stata creata in Sudafrica per affrontare, veramente approfondire la situazione senza trovarsi in un'aula di tribunale, e quindi sapere, dichiarare le responsabilità. Secondo me è un'idea valida, nel senso che se i ciclisti, i trainers, i dottori, i manager delle squadre e gli sponsor siedono attorno a questo tavolo e ammettono le proprie responsabilità, è un primo grande passo. Allora, intanto grazie per essere stato nostro ospite, Claudio Gatti, in diretta dalla redazione del Sole 24 Ore di New York, e buon lavoro. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete risentirci attraverso il nostro sito internet www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento, come di consueto, è per domenica prossima alle 14.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.